la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Corro per la strada, ma nessuno come me. Non so dove andare e non so neanche il perché, ma io devo andare. Nella mente ho tante idee, ma nessuna si farà mai. Nel mio cuore ho tanta gioia, ma tra poco passerà. Dai, è la mia vita. Questa vita un po' bislacca, questa testa un po' così. Io vorrei per sempre andare via, ma alla fine resto qui e viaggio solo con i miei pensieri. È un po' scemo alla mia età. Forse sembro nato ieri, ma la mia vita è questa qua, si è tutta qua. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La vita che vorrei è un grande salto dentro al cielo. La vita che vorrei è risvegliarmi a fianco a te ogni mattina, guardare il mondo poi da un'altra angolazione, trovare la felicità tra un miliardo di persone. Ma che utopia. Le cose che ho sognato e i pensieri che io ho, le speranze che ho vissuto fino a qui, sono vive per metà. Mentre il sole dietro un vetro opaco brilla ancora per un po', ma tra le nuvole e le finestre accese, prima o dopo scenderà, ce la farà. La vita che vorrei oggi è soltanto un'utopia, la mia vita reale oggi è anche un po' la tua, giorno per giorno. La vita che vorrei è un giorno di pioggia e di sole, la vita che vorrei è ritrovar le mie parole senza rimpianti. Ogni giorno vola via, ogni notte se ne va, questo tempo passa in fretta come il vento, chissà mai ci darà quella voglia di volare dentro il cielo, un po' più in alto verso il blu. Quella voglia di cercare la speranza che darà felicità. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bye. voglia di volare dentro il cielo un po' più su, quella voglia di cercare la speranza che darà felicità, felicità.